Come poté passarle per il capo di esaminare la lettera, di considerarla criticamente come una professione d'amore? Tutta la sua anima era presa dal fatto che una vita più piena le si stava schiudendo davanti. Era una neofita in procinto di salire a un livello più elevato di iniziazione. Stava per acquisire lo spazio per quelle energie che si agitavano inquiete sotto l'oscurità e l'urgenza della sua ignoranza e della meschina perentorietà delle abitudini mondane. Ora avrebbe potuto dedicarsi a grandi eppure precisi doveri. Ora le sarebbe stato concesso di vivere continuamente alla luce di un intelletto che poteva rispettare. Una tale speranza non era disgiunta dal calore di un orgoglioso piacere, la gioiosa sorpresa virginale di essere eletta dall'uomo che la sua stessa ammirazione aveva eletto. Tutta la passione di Dorotea era filtrata attraverso un intelletto che si dibatteva per raggiungere una vita ideale. Il fulgore della sua giovinezza trasfigurata cadde sul primo oggetto che giunse alla sua portata. L'impeto con cui l'inclinazione divenne risolutezza fu intensificato da quei piccoli avvenimenti quotidiani che l'avevano resa insofferente verso le sue concrete condizioni di vita. Dopo cena, quando Celia stava suonando un'aria con variazioni, un genere di lieve tintinnio che simboleggiava l'elemento estetico dell'istruzione delle signorine, Dorotea salì nella sua stanza per rispondere alla lettera di Casabo. Perché rimandare la risposta? La riscrisse 3 volte, non perché volesse cambiare la formulazione, bensì perché aveva la mano insolitamente tremante e non poteva sopportare l'idea che Mr. Casabo giudicasse la sua calligrafia brutta e illeggibile. Si sforzò di scrivere con una grafia in cui ogni lettera era riconoscibile, senza dover ricorrere a un ampio margine di congetture, ed aveva intenzione di fare grande uso di questa capacità per risparmiare la vista di Mr. Casabo. Per 3 volte scrisse: Mio caro Mr. Casabo, vi sono assai grata perché mi amate e mi considerate degna di essere vostra moglie. Non posso immaginare maggiore felicità di quella che sia concorde con la vostra. Se dicessi di più, sarebbe solo la stessa cosa scritta più estesamente, perché ora non posso soffermarmi su alcun altro pensiero, se non che potrò essere per la vita intera la vostra, devotamente, Dorotea Brooke. Quella sera, più tardi, seguì lo zio nella biblioteca per consegnargli la lettera, in modo che potesse spedirla al mattino. Egli rimase sorpreso, ma la sua sorpresa si espresse solo in alcuni attimi di silenzio, durante i quali spostò vari oggetti sulla scrivania e infine restò in piedi con la schiena rivolta al caminetto, gli occhiali inforcati, a guardare l'indirizzo della lettera di Dorotea. «Ci hai pensato abbastanza, mia cara», disse infine. «Non ho dovuto pensarci molto, zio. Non conosco nulla che potrebbe farmi esitare. Se dovessi cambiare opinione, dovrebbe essere a motivo di qualcosa di importante, completamente nuovo per me. Allora lo hai accettato. Allora accetta, ma non ha più speranze. Chatham ti ha offesa? Offesa, capisci? Cosa c'è in Chatham che non ti piace? Non c'è nulla di lui che mi piaccia, disse Dorotea in tono alquanto veemente. Mr. Brooke gettò la testa e le spalle all'indietro, come se qualcuno gli avesse scagliato contro un sassolino. Dorotea provò immediatamente una certa vergogna di sé e disse: Intendo dire come marito. È molto gentile, penso, sarebbe buono per i cottage, una persona ben intenzionata. Ma tu vuoi avere uno studioso e quel genere di roba lì? Beh, è un po' un tratto della nostra famiglia. Anch'io ce l'avevo, quell'amore per il sapere, ed interessarmi di tutto, un po' troppo. Mi ha portato troppo lontano. Per quanto questo genere di cose non si trovi spesso nelle discendenze femminili, o scorre in profondità, come i fiumi in Grecia, sai, spunta fuori nei figli maschi. Figli intelligenti, madri intelligenti. Mi sono occupato molto di questo una volta. Comunque, mia cara, ho sempre detto che in queste faccende uno dovrebbe fare come gli pare fino a un certo punto. Come tuo tutore, non avrei potuto acconsentire a un matrimonio sbagliato. Ma Casabo è stimato, ha una buona posizione. Temo che Chatham ci rimanga male, però, e che Mr. Cadwallader dia la colpa a me. Quella sera Celia naturalmente non seppe nulla di quanto era successo. Attribuì i modi distratti di Dorotea e i segni che aveva pianto ancora da quando erano giunte a casa alla stizza provata per Sir James Chatham e le costruzioni, e si guardò da non offenderla oltre. Una volta detto ciò che voleva, Celia non era per natura portata a insistere su argomenti spiacevoli. Da piccola la sua indole non la portava mai a litigare con nessuno. Solo a osservare con stupore che gli altri litigavano con lei assumevano l'aspetto di tacchini. Dopodiché, una volta che si fossero calmati, era pronta a giocare a ripiglino con loro. E quanto a Dorotea, era stata sempre sua abitudine trovare qualcosa di sbagliato nelle parole della sorella, sebbene Celia dentro di sé obiettasse che lei diceva sempre soltanto come stavano le cose e niente di più. Non le riuscì mai di mettere insieme delle parole per dire qualcosa di inventato e non lo fece mai. Ma il lato migliore di Dodo era che non le teneva il broncio per molto. Ora, sebbene non si fossero rivolte la parola per tutta la serata, pure quando Celia posò il proprio lavoro col proposito di andare a letto, cosa che era sempre la prima di tutti a fare, Dorotea, che se ne stava seduta su uno sgabello basso, incapace di far altro che meditare, disse con l'intonazione musicale che nei momenti di emozioni intense ma tranquille faceva sembrare le sue parole un bel pezzo di recitativo. Celia cara, vieni a darmi un bacio, tenendo le braccia aperte mentre parlava. Celia si inginocchiò per portarsi all'altezza giusta e le diede il suo lieve bacio di farfalla, mentre Dorotea la stringeva fra le braccia, dolcemente. E le premette con gravità le labbra su entrambe le guance. Non stare alzata, Dodo, sei così pallida questa sera. Va a letto presto, disse Celia con accento confortante senza un'ombra di pathos. No, cara, sono molto, molto felice, fece Dorotea con ardore. Tanto meglio, pensò Celia. Ma com'è strano il modo con cui Dodo passa da un estremo all'altro. Il giorno successivo, a pranzo, il maggiordomo, porgendo qualcosa a Mr. Brooke, disse: Jonas è ritornato, signore, e ha portato questa lettera. Mr. Brooke lesse la lettera e poi, facendo cenno a Dorotea, disse: Kesabo, mia cara, verrà qui a cena. Non ha perso tempo a scrivere. Non ha perso tempo, vedi? A Celia non parve degno di nota il fatto che un ospite a cena venisse annunciato in anticipo alla sorella, ma dopo che i suoi occhi ebbero seguito la stessa direzione di quelli dello zio, essa fu colpita dall'effetto tutto particolare che quell'annuncio ebbe su Dorotea. Parve che qualcosa di simile al riflesso di un'ala bianca illuminata dal sole fosse passato sui suoi lineamenti, facendovi infine affiorare uno dei suoi infrequenti rossori. Per la testa di Celia passò per la prima volta l'idea che fra Mr. Kesabo e la sorella ci potesse essere qualcosa di più del piacere di lui per i discorsi libreschi e quello di lei nell'ascoltarlo. Fino ad allora essa aveva messo sullo stesso piano l'ammirazione per questo conoscente brutto e dotto e l'ammirazione per Monsieur Liret a Losanna, anche egli brutto e dotto. Dorotea aveva ascoltato instancabile il vecchio Monsieur Liret, mentre i piedi di Celia erano congelati ed era divenuto veramente terribile vedere la cute della sua testa calva muoversi qua e là. Perché allora il suo entusiasmo non avrebbe dovuto ripetersi per Mr. Kesebo come era accaduto per Monsieur Liret? E pareva probabile che tutti i dotti guardassero i giovani con l'aria di un maestro di scuola. Ma ora Celia fu davvero allarmata dal sospetto che le era balenato per la mente. Le accadeva di rado di venir presa alla sprovvista in questo modo, perché una meravigliosa tempestività nel notare un certo genere di segnali di solito la preparava ad attendersi quegli avvenimenti esteriori per cui essa nutriva interesse. Non che ora si immaginasse che Mr. Casabò era già stato accettato come innamorato, aveva solo cominciato a provare disgusto per la possibilità che un qualsiasi pensiero di Dorotea potesse mirare a una simile soluzione. Ecco qualcosa di Dodo che proprio la preoccupava. Una cosa era non accettare Sir James Chatham, ma l'idea di sposare Mr. Casaubon. Celia provò una sorta di vergogna mista a un senso di ridicolo, ma forse Dodo, se era davvero sul punto di abbandonarsi a una simile stravaganza, ne poteva essere dissuasa. L'esperienza aveva spesso dimostrato che si poteva contare sulla sua impressionabilità. La giornata era umida e non sarebbero uscite a passeggiare, così entrambe salirono nel loro salottino e qui Celia notò che Dorotea, invece di dedicarsi con la diligenza e l'interesse consueti a qualche occupazione, appoggiò semplicemente il gomito sul libro aperto e guardò fuori della finestra il grande cedro inargentato dall'umidità. Lei invece si era messa a costruire un giocattolo per i figli del curato e non aveva intenzione di affrontare alcun argomento di conversazione con fare troppo precipitoso. Dorotea in effetti stava pensando che era bene che Celia fosse messa al corrente del mutamento importante intervenuto nella posizione di Mr. Casaubon dall'ultima volta che questo era stato in casa loro. Non le sembrava giusto lasciarla all'oscuro di ciò che necessariamente avrebbe inciso nel suo atteggiamento nei confronti di lui, ma era impossibile non rifuggire da rivelarglielo. Per questa timidezza Dorotea si accusò di una certa meschinità. Era sempre odioso nutrire delle piccole paure o ricorrere a dei sotterfugi per le proprie azioni, ma in questo momento cercava la maggior forza d'animo possibile per non temere la causticità della prosa piuttosto mondana di Celia. La sua fantasticheria fu interrotta e la difficoltà della decisione bandita dalla vocina piuttosto gutturale di Celia, che nel tono consueto simile a quello di un'osservazione marginale o di un a proposito, disse: Verrà nessun altro a cena oltre Mr. Casaubon? Che io sappia, no. Spero che ci sia qualcun altro. Allora non lo sentirò bere il brodo in quel modo. Cosa c'è di eccezionale nel suo modo di bere il brodo? Davvero, Dodo? Non senti come fa stridere il cucchiaio? E sbatte sempre le palpebre prima di parlare? Non so se Locke sbattesse le palpebre, ma certo compiango chi gli sedeva di fronte se faceva così. Celia, fece Dorotea con imponente gravità, ti prego di non fare altre osservazioni del genere. Perché no? Sono verissime, ribatté Celia che aveva i suoi buoni motivi per insistere, anche se cominciava ad avere un po' di paura. Ci sono molte cose vere che solo le menti più ordinarie osservano. Allora credo che le menti più ordinarie debbano essere piuttosto utili. Penso che sia un peccato che la madre di Mr. Casaubon non abbia avuto una mente più ordinaria. Gli avrebbe potuto insegnare a comportarsi meglio. Celia, dentro di sé, era atterrita e pronta a darsi alla fuga ora che aveva scagliato questo piccolo giavellotto. I sentimenti di Dorotea erano divenuti valanga e non era più possibile altro indugio. È giusto che ti dica, Celia, che sono fidanzata con Mr. Casaubon. Forse Celia non era mai impallidita tanto in precedenza. Il fantoccio di carta che stava facendo sarebbe rimasto ferito alla gamba se non fosse stato per la sua attenzione abituale a ciò che reggeva in mano. Posò immediatamente la fragile figurina e rimase seduta del tutto immobile per alcuni minuti. Quando parlò, le stava spuntando una lacrima. Oh Dodo, spero che tu sia felice. La sua tenerezza di sorella non poteva non vincere altri sentimenti in un momento simile e i suoi timori erano i timori dell'affetto. Dorotea era ancora ferita e agitata. È del tutto deciso allora, disse Celia in tono sommesso, pieno di sgomento. E lo zio lo sa. Ho accettato la proposta di Mr. Casaubon. Lo zio mi ha portato la lettera che la conteneva. Sapeva già della cosa. Ti chiedo scusa se ho detto qualcosa che ti abbia ferito, Dodo, disse Celia, emettendo un piccolo singhiozzo. Non avrebbe mai pensato che si sarebbe sentita così. In tutta la faccenda c'era anche un che di funereo e Mr. Casaubon pareva il prete officiante, sul quale sarebbe stato indecoroso fare delle osservazioni. Non importa, Kitty, non rattristarti. Non ammireremo mai le stesse persone. Io ti offendo spesso sullo stesso argomento. Sono portata a parlare in termini troppo duri di coloro che non mi vanno a genio. Nonostante la sua magnanimità, Dorotea soffriva ancora, forse tanto per lo sbalordimento sottomesso di Celia quanto per le sue piccole critiche. Naturalmente tutti, nei dintorni di Tipton, avrebbero disapprovato questo matrimonio. Dorotea non conosceva nessuno che la pensasse come lei a proposito della vita e dei suoi scopi migliori. Comunque, prima che la sera fosse terminata, era felicissima. In un tête-à-tête di un'ora con Mr. Casaubon, essa gli parlò con maggiore libertà di quanto avesse provato in precedenza, addirittura esternando la propria gioia al pensiero di dedicarsi a lui e di imparare come poter meglio prendere parte a tutti i suoi grandi progetti e promuoverli. Mr. Casaubon fu preso intimamente da un'ignota delizia. Quale uomo non lo sarebbe stato davanti a quello sfrenato ardore infantile? Non fu sorpreso, quale innamorato lo sarebbe stato, di esserne lui l'oggetto. Mia cara signorina, Miss Brooke, Dorothea, disse stringendole la mano fra le proprie. Questa è una felicità maggiore di quanto io avessi mai immaginato fosse in serbo per me. Che io dovessi mai incontrare una mente, una persona così ricca delle varie qualità che potevano rendere il matrimonio desiderabile. Era ben lungi dai miei pensieri. Voi le possedete tutte, anzi ancor di più, quelle qualità che ho sempre considerato i pregi caratteristici della femminilità. Il grande dono del vostro sesso è la sua capacità di un affetto ardente altruista, e in ciò vediamo quanto sia adatto a coronare e completare l'esistenza del nostro. Finora ho conosciuto pochi piaceri, tranne quelli del genere più arduo. Le mie soddisfazioni sono state quelle dello studio solitario. Sono stato poco disposta a raccogliere fiori che sarebbero appassiti nelle mie mani, ma ora li coglierò con ardore per posarli nel vostro grembo. Nessun discorso avrebbe potuto essere, nelle intenzioni, più completamente onesto. La fredda retorica con cui terminava era sincera come l'attrato di un cane o il gracchiare di un corvo in amore. Non sarebbe avventato concludere che non c'era alcuna passione dietro a quei sonetti a Delia che ci colpiscono come la musica esile di un mandolino. La fede di Dorothea aggiunse tutto ciò che le parole di Mr. Casaubon sembravano lasciare inespresso. Quale credente si accorge di un'omissione allarmante o un'espressione infelice? Il testo, vuoi di un profeta, vuoi di un poeta, si espande per tutto ciò che possiamo inserirvi e persino le sue sgrammaticature sono sublimi. Io sono molto ignorante. Vi meraviglierete davvero della mia ignoranza, disse Dorotea. Ho tanti pensieri che forse sono del tutto errati e ora potrò dirli a voi e chiedervi cosa ne pensate, ma aggiunse, immaginando subito i probabili sentimenti di Mr. Casaubon, non vi arrecherò troppo disturbo, solo quando sarete disposto ad ascoltarmi. Dovete essere spesso stanco di occuparvi delle vostre ricerche. Ci guadagnerò a sufficienza se mi porterete là assieme a voi. Come potrei ora percorrere alcun sentiero senza la vostra compagnia? Disse Mr. Casaubon, baciandole la candida fronte e sentendo che il cielo gli aveva concesso una benedizione che si confaceva sotto ogni aspetto alle sue necessità particolari. Era inconsapevolmente turbato dal fascino di una natura completamente esente da calcoli nascosti sia per i fini immediati che per scopi remoti. Era questo che rendeva Dorotea così infantile e a giudizio di alcuni così stupida, nonostante tutta la sua supposta intelligenza, come per esempio nel caso attuale il fatto di gettarsi, metaforicamente parlando, ai piedi di Mr. Casaubon e di baciargli le stringhe fuori moda come se fosse un papa protestante. Non stava minimamente insegnando Mr. Casaubon a chiedersi se egli fosse abbastanza adatto a lei, ma si limitava a chiedere ansiosamente a se stessa come poteva lei essere abbastanza adatta a Mr. Casaubon. Prima che questi partisse il giorno successivo, fu deciso che il matrimonio avrebbe avuto luogo di lì a 6 settimane. Perché no? La casa di Mr. Casaubon era pronta, non era una canonica, ma una grande casa signorile con molta terra annessa. Nella canonica abitava il curato, che espletava tutte le mansioni, tranne quella di pronunciare il sermone mattutino. Capitolo 6. Mentre la carrozza di Mr. Casaubon usciva dal cancello, bloccò l'ingresso di un phaeton tirato da un pony e guidato da una signora con un servitore seduto dietro. È dubbio che si riconoscessero a vicenda perché Mr. Casaubon guardava davanti a sé con occhio assente, ma la signora aveva l'occhio svelto e giusto in tempo gli fece un cenno col capo e gli lanciò un salve. A dispetto del cappellino frusto e dello scialle indiano assai vecchio, fu chiaro che la guardiana la considerava un personaggio importante, dal grande inchino che fece all'ingresso del minuscolo feto. Ebbene, Mrs. Fitchett, fanno le uova adesso i vostri polli? Chiese la florida signora dagli occhi scuri, con una voce tutta cesellata. Le fanno sì, signora, ma si sono messi a mangiarle. Non ho pace per stare dietro a tutti. Oh, cannibali, meglio venderli subito a poco prezzo. Quanto volete alla coppia? Non si possono mangiare polli dal carattere intrattabile pagandogli un occhio. Beh, signora, mezza corona, non potrei venderli per meno. Mezza corona di questi tempi. Andiamo, per il brodo di pollo del pastore la domenica. Dei nostri ha consumato tutti quelli che posso dargli. Siete già mezzo pagata col sermone, Mrs. Fitchett. Ricordatevi di questo. Prendetevi in cambio una coppia di colombi tombolieri. Sono così carini. Dovete venire a vederli. Non avete dei tombolieri fra i vostri piccioni? Beh, signora, padron Fitchen andrà a vederli dopo che ha finito di lavorare. È molto entusiasta per le razze nuove per fare una cortesia a voi. Una cortesia a me. Sarà il miglior affare della sua vita. Una coppia di piccioni in cambio di una coppia di perfidi polli spagnoli che si mangiano le uova. Non vantatevi troppo, voi e Fitchett, questo è tutto. Con queste ultime parole, ella rimise in moto il suo phaeton, lasciando Mrs. Fitchett a ridere e a scuotere il capo lentamente mentre esclamava: Certamente, certamente! Da cui si sarebbe potuto dedurre che avrebbe trovato la campagna un po' troppo monotona se la moglie del pastore fosse stata meno franca e meno spilorcia. In effetti, sia i contadini che i braccianti delle parrocchie di Freshitt e di Tipton si sarebbero sentiti tristemente a corto di argomenti di conversazione se non fosse stato per le storielle riguardanti ciò che Mrs. Cadwallader diceva e faceva. Una signora di lignaggio smisuratamente alto, discendente per così dire di ignoti conti, oscuri come una folla di ombre eroiche, la quale piangeva miseria, tirava sul prezzo e lanciava battute col fare più socievole. Anche se con dei giri di parole che vi facevano capire chi fosse. Una tale donna conferiva cordialità sia al rango che alla religione e leniva l'amarezza dell'imperturbabilità delle decime in natura. Un personaggio assai più esemplare, con una dose di acida dignità, non avrebbe favorito la loro comprensione dei 39 articoli e sarebbe stato un cemento sociale meno forte. Mr. Brooke, che vedeva i meriti di Mr. Cadwallader da una prospettiva diversa, trasalì un poco quando le fu annunciato il suo nome in biblioteca, dove si trovava seduto da solo. So che avete avuto qui il cicerone di Lowick, disse sentendosi a proprio agio, buttandosi dietro la schiena gli scialli e mostrando una figura sottile ma ben disegnata. Sospetto che voi e lui stiate macchinando una qualche perfida manovra politica, altrimenti non vedreste così spesso quello spirito brillante. Vi denuncerò. Ricordatevi che siete tutte e due persone sospette da quando avete preso le parti di Peel per la legge sui cattolici. Dirò a tutti che avete intenzione di candidarvi a Middlemarch dalla parte dei Whig, quando il vecchio Pinkerton darà le dimissioni e che Casebo vi aiuterà sottobanco, corromperà gli elettori con dei pamphlet e farà spalancare le birrerie per distribuirli. Andiamo, confessate. Niente del genere, disse Mr. Brooke, sorridendo e strofinando gli occhiali, ma in realtà arrossendo un poco a questa accusa. Casebo e io non parliamo molto di politica, non si interessa molto dell'atto filantropico delle cose, pene giudiziarie e robe simili, si occupa solo di questioni ecclesiastiche. Quella non è la mia linea d'azione, lo sapete. Anche troppo, amico mio. Io sono a conoscenza di ciò che avete fatto. Chi è stato che ha venduto il proprio pezzetto di terra ai papisti a Middlemarch? Io credo che l'abbiate comprato apposta. Siete un vero gay fax. Vedrete se non vi bruceranno in effigie il 5 novembre prossimo. Humphrey non è voluto venire a litigare con voi per questo, perciò sono venuta io. Molto bene, ero pronto a essere perseguitato per non avere perseguitato. Non avere perseguitato, capite? Ecco qua. Questo è un esempio di sproloquio che vi siete preparato per la tribuna. Ora, non lasciatevi attirare alla tribuna, mio caro Mr. Brooke. Un uomo ci fa sempre la figura dello stupido a fare discorsi. Non vi è altra scusante se non quella di trovarsi dalla parte giusta, così che potrete chiedere una benedizione per il vostro mormorare e raschiarvi la gola. Mi perderete, vi prevengo. Farete un bel pasticcio delle opinioni di tutti i partiti e tutti vi daranno addosso. È quello che mi aspetto, lo sapete? Fece Mr. Brooke, non desiderando mostrare quanto poco gli piacesse questo quadretto profetico. Quello che mi aspetto è in quanto indipendente. Quanto ai Whig, un uomo che va con i filosofi non è probabile che venga accalappiato da nessun partito. Può darsi che li segua fino a un certo punto. Fino a un certo punto, badate. Ma questa è una cosa che voi donne non capirete mai. Dov'è il vostro certo punto? No? Vorrei che mi dicessero in che modo. Uno può avere un certo punto quando non è in nessun partito, conduce una vita vagabonda e non fa mai sapere ai suoi amici il suo indirizzo. Nessuno sa dove sarà Brooke, non si può contare su Brooke. Ecco cosa dice la gente di voi ad essere troppo sinceri. Andiamo, diventate una persona rispettabile. Credete che vi piacerà andare alle sedute con tutti che vi guardano con sospetto e voi lì, con la coscienza sporca e le tasche vuote? Non ho la pretesa di discutere di politica con una signora, disse Mr. Brooke, con un'aria di sorridente indifferenza, ma con la consapevolezza piuttosto sgradevole che questo attacco di Mr. Cadwallader aveva inaugurato la campagna difensiva a cui avevano esposto certi passi avventati. Il vostro non è un sesso di filosofi, capite? Varium et mutabile semper, quel genere di cose. Non conoscete Virgilio? Io conoscevo, Mr. Brooks ebbe in tempo che non aveva conosciuto personalmente il poeta Augusteo, volevo dire il povero Stoddart, sapete, era una cosa che aveva detto lui. Voi donne siete sempre contrarie a un atteggiamento indipendente, al fatto che a un uomo non importi nulla tranne la verità e cose del genere, e non c'è nessuna parte della contea dove le idee siano più ristrette di qui. Non per criticare, capite, ma ci vuole qualcuno che prenda una posizione indipendente, e se non la prendo io, chi lo farà? Chi? Ma qualsiasi villan rifatto che non è né nobile né ricco, che ha una posizione dovrebbe rodersi le proprie assurde idee indipendenti a casa e non andare a venderle in giro. E voi, che state per maritare vostra nipote, come dire, vostra figlia, con uno dei nostri uomini migliori? Sir James si irriterebbe terribilmente, soffrirà molto se adesso gli voltate le spalle e fate di voi un vessillo dei Whig. Mr. Brooke trasalì di nuovo dentro di sé, perché non si era ancora deciso il fidanzamento di Dorotea, che lui aveva già pensato ai probabili sarcasmi di Mrs. Cadwallader. Per un osservatore ignaro avrebbe potuto essere facile dire: litigate con Mrs. Cadwallader. Ma dove può andare un gentiluomo di campagna dopo aver litigato con i propri vicini di più antica data? Chi avrebbe potuto gustare il fine aroma del nome di Brooke se fosse stato rifilato con indifferenza, come del vino sfuso? È certo che si può essere cosmopoliti fino a un certo punto. Spero che Chatham e io saremo sempre buoni amici, ma mi spiace dire che non ha nessuna speranza di sposare mia nipote, fece Mr. Brooke, assai sollevato nel vedere dalla finestra che Celia stava per entrare. Perché no? Chiese Mrs. Cadwallader con un'acuta nota di sorpresa. Non sono neppur 15 giorni che voi e io ne stavamo parlando. Mia nipote ha scelto un altro corteggiatore. Lo ha scelto, capite? Io non c'entro. Avrei preferito Chetham e avrei detto che Chetham era l'uomo che qualsiasi ragazza avrebbe scelto, ma queste cose sono inspiegabili. Il vostro sesso è capriccioso, lo sapete.